Europa 24. Eccoci qua, buon pomeriggio da Gigi Donelli. Dunque, le notizie europee oggi ci segnalano un fatto che è anche una curiosità. Pensate, l'ultimo commissario britannico sceglie il francese, si chiama King. King, dunque, dopo il regno viene mandato, la storia vuole che l'ultimo commissario europeo di passaporto britannico, sempre che non accada qualcosa nel percorso di questa Brexit, che tecnicamente non è nemmeno iniziato, si chiama King e prende il portafogli europeo per la sicurezza. Dettaglio, ha preferito intervenire in francese, ha detto personalmente, tra l'altro ha detto: sono sempre stato orgoglioso di essere britannico e orgoglioso di essere europeo. Questa è la situazione e dice: non c'è nessuna contraddizione in tutto questo, ma il 23 giugno la maggioranza dei miei compatrioti ha deciso che volevano lasciare l'UE e questo ormai è un fatto. Appuntamento invece per domani, lo ricordo, a quasi tre mesi dal referendum che ha chiesto la Brexit, l'Unione Europea apre il cantiere del futuro. Domani discorso sullo stato dell'Unione. Juncker, dunque il presidente della Commissione, è chiamato a rianimare anche con un discorso anche dal podio appunto una situazione delicata, situazione molto delicata che vede invece imminente l'appuntamento di Bratislava. Al servizio. Quale futuro per l'Unione Europea? Quale la rotta dei prossimi mesi? Il vertice straordinario di Bratislava del 16 settembre è ormai alle porte, ma sembra che nessuno ancora abbia idee chiare su dove l'Europa debba andare dopo la decisione della Gran Bretagna di uscire dal club. Una cosa però pare probabile, come ha detto il premier slovacco Robert Fico, il cui paese è presidente di turno, al vertice di venerdì tra i rappresentanti dei 27 non verrà assunta nessuna decisione concreta. Siamo solo all'inizio, dice il premier, e sarà dunque una prima riflessione e una diagnosi dell'Europa dopo la Brexit. Un incontro utile a fissare un'agenda, ha spiegato anche la cancelliera tedesca Merkel. I capi di Stato e di Governo dunque si siederanno attorno a un tavolo per la seconda volta dopo quella famosa mattinata del 29 giugno in cui ricevettero la notizia shock del risultato del referendum in Gran Bretagna. E due giorni dopo il discorso sullo Stato dell'Unione, quello che il presidente della Commissione Juncker pronuncerà dinanzi all'Europarlamento di Strasburgo domani, un intervento in cui cercherà di dimostrare i progressi compiuti sulle 10 priorità fissate ad inizio mandato dall'esecutivo comunitario e in cui indicherà come intende affrontare le sfide future, dall'immigrazione alla sicurezza all'antiterrorismo al rilancio della crescita e dell'occupazione, tutti temi che verranno affrontati anche a Bratislava. In particolare sulla difesa, Francia e Germania hanno preparato proposte comuni per renderla più reattiva ed efficace. Giovedì, alla vigilia del vertice, la cancelliera tedesca Merkel si recherà a Parigi per un colloquio di armonizzazione con il presidente francese Hollande. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 ore. È un voto nazionale, ma peserà sicuramente sull'Europa. Un commento sull'Austria, che a tre settimane dal voto l'Austria blocchi le elezioni presidenziali rinviandole di due mesi perché le buste non sono collose, mi fa sentire puzza di trucchi elettorali. Così Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, responsabile organizzazione e territorio della Lega Nord. Ed effettivamente la storia è quantomeno molto strana. Intanto elezioni rimandate, sentiamo il servizio. Non ci sarà alcun discorso presidenziale alla nazione a San Silvestro. Nell'incredibile pasticcio elettorale consumatosi ieri con figuraccia su scala internazionale, è questa una delle poche certezze che restano agli austriaci. Visibilmente imbarazzato è stato il ministro dell'interno Sobotka a dover annunciare ieri mattina che, dopo le elezioni invalidate lo scorso 22 maggio, anche quelle del 2 ottobre finiranno nel cestino, saltate ancora prima di venire effettivamente svolte a causa di un clamoroso difetto di fabbrica delle buste utilizzate per i voti inviati per corrispondenza, pratica molto comune a Vienna, la cui colla adesiva pare incapace di resistere oltre mezz'ora. Buste spedite per posta che si aprono strada facendo, invalidando centinaia o migliaia di voti, uno scenario da incubo contro il quale il governo di grande coalizione è corso ai ripari, riprogrammando le elezioni, terza data in un anno, per il 4 dicembre. Nel frattempo il Parlamento dovrà varare una nuova legge elettorale, premessa necessaria per non far degenerare le presidenziali in una farsa. Sullo sfondo restano loro, i due candidati outsider, il verde van der Bellen, vincitore delle elezioni annullate di maggio, e il rappresentante dell'estrema destra Hofa, che gli ultimi sondaggi davano in vantaggio. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 ore. Bene, adesso che sono le 14.06 siete tutti convocati da Pierluigi Pardo, scusate, oggi in conduzione e naturalmente per l'ampia pagina sportiva. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.